in occasione appunto di questa mostra di Novara Casa Bossi. Presento il gruppo, io sono qui in rappresentanza di Nude Dos Arte. Noi ci siamo costituiti lo scorso anno proprio intorno a questo trittico, siamo tre componenti, abbiamo una comune formazione teatrale, con esperienze molto diverse alle spalle. Io sono giornalista e filmmaker, Andrea Torsetta è un giornalista e fotografo e Deborah Palmieri è un architetto. Come nasce questo trittico? Originariamente io ho sempre un po' avuto la passione, ecco, del gioco degli scacchi, pensavo ad un monologo su questo teatrale, su questa figura strana di Paul Morphy, che è un po' il primo campione non riconosciuto del mondo degli scacchi, poi questa opera appunto la vedremo. Era difficile comunque attualizzare questo tema, era difficile trovare una chiave di lettura, per cui avevo subito pensato di associare a questa prima storia altre due storie, ossia era interessante andare ad investigare il rapporto tra la genialità e la follia in settori limitrofi che sono quelli dell'arte e quelli della scienza, no? C'è sempre stato questo connubio stretto, i geni pazzi, quanti ce ne sono stati nella storia? Abbiamo visto prima l'esempio di Van Gogh, ma potremmo citare anche Hölderlin, il pittore Ligabue, insomma gli esempi potrebbero essere infiniti. Abbiamo voluto allora cercare dei personaggi che non fossero così comuni, di artisti ce n'erano tantissimi interessanti. Noi abbiamo scelto Carlo Zinelli perché è un po' una figura un po' trascurata ma molto interessante sotto diversi punti di vista, e proprio le ossessioni di Zinelli ci hanno dettato il ritmo della prima installazione e quindi poi a seguire delle altre. Diceva Tommaso prima, questo trittico è costruito sulla biografia di tre persone, di tre personaggi. È una rielaborazione delle loro opere più famose. La prima è dedicata appunto a Carlo Zinelli, che è un pittore esponente dell'Art Brut, nasce nel 1916 a San Giovanni Lupatoto, che è un paesino in provincia di Verona. Alla sua infanzia nelle campagne, e poi successivamente subisce un vero e proprio trauma perché, partecipando alla guerra di Spagna, lui impazzisce, perde la ragione e viene internato in manicomio. In manicomio, tuttavia, ha modo di seguire i laboratori di uno scultore irlandese che furono tenuti appunto nell'ospedale psichiatrico di Verona, e questo fu un incontro fondamentale per lui, perché scoprì, diciamo, una creatività inespressa. Da lì cominciò una straordinaria avventura artistica. Oggi Zinelli è quotato in tutto il mondo, esiste una fondazione preposta alla tutela delle sue opere che fa mostre ovunque, dalla Russia agli Stati Uniti al Giappone. Zinelli ha una produzione impressionante, lui spesso dipingeva sui due lati, ha un linguaggio molto personale, spesso e volentieri dipinge le figure di profilo. Vediamo spesso queste figure, queste piccole processioni, queste sagome che secondo alcuni richiamano un po' l'arte egizia. Vediamo ritornare il trauma della guerra, vediamo croci di Camposanto, vediamo missili, vediamo anche animali, vediamo asini, vediamo mucche, c'è un po' tutto il suo immaginario. Cosa ancora più significativa è la presenza di buchi. Vediamo spesso queste figure che hanno dei veri e propri buchi in prossimità dei luoghi, diciamo, del cuore, del cervello, ossia degli organi vitali. Ci si è sempre chiesti che cosa rappresentassero questi buchi. Alessandro Zinelli, che è il nipote, il presidente della fondazione, sostiene che questi buchi non siano altro che le pastiglie di cui lui veniva imbottito durante appunto questa sua permanenza in manicomio, e questo ci riporta appunto al discorso che si faceva prima dei metodi coercitivi per allontanare lo spettro, ecco, della malattia psichica. Zinelli muore nel 1974. Oggi viene ritenuto esponente dell'Art Brut in quanto, grazie all'interessamento di Buzzati e di altri intellettuali, fu proposta di un buffet, di cui poi appunto si parlerà alla fine della serata, Di Buffet sospettò che non fosse ascrivibile a questa corrente, in quanto riteneva che il linguaggio fosse così compiuto, così perfetto, così ben strutturato, che fosse figlio di studi ben specifici e non di un artista genuino. Quando invece raccontarono la storia di Zinelli, un artista che non ebbe nessuna istruzione, non ha mai seguito degli studi, si è fermato alla terza elementare, un artista cresciuto da solo, allora si è convinto di essere vicino ad un vero e proprio genio artistico. Io vi mostrerei una delle versioni di Zinelli e così poi la raccontiamo insieme. È una versione, diciamo così, tascabile, una versione smart, perché la concezione originaria prevede un'installazione su quattro televisori disposti a semicerchio con un metronomo in mezzo. Noi invece la proiettiamo qui su schermo solo. Zinelli, la prima. Mettiamo l'audio. No, con l'audio forte. Allora, come dicevo, ognuno dei capitoli del trittico è uno sviluppo di un'opera di questi personaggi. In questo caso le silhouette richiamano l'arte di Zinelli che disegnava queste figure nere di profilo. Abbiamo parlato prima dei buchi, qui in questo caso noi li abbiamo creati nella testa dei personaggi, quindi prossimità all'organo vitale del cuore. Il tema fondamentale di questa prima parte del trittico è una riflessione sul tempo, ossia è nostra convinzione che nella mente di un malato non ci sia più una successione cronologica di istanti, ossia il passato, il presente e il futuro sono compresenti, è un tutto, è un fluire indistinto, è una dimensione extratemporale che manca di qualsiasi ancoramento alla realtà. Questo è molto evidente nei quadri di Zinelli, come dicevamo prima, si vedono compresenti i ricordi dell'infanzia, la campagna, le processioni dei sacerdoti, i pretini, come lui li chiamava, ma si vedono anche i carri armati, si vede un po' anche un'intuizione sul suo futuro, in una sorta di horror vacui che tende a coprire completamente tutta la tela. No, allora abbiamo voluto rappresentare quattro momenti della sua vita, scanditi da questo battito, dal battito ossessivo del metronomo, perché le sue ossessioni avevano sempre un andamento ritmico. Lui era un appassionato, ecco, anche di musica. Nel primo quadro vediamo una spirale, vediamo questi quattro personaggi, ecco, quattro è un altro numero molto ricorrente nella sua produzione, non sappiamo per quale motivo, ma tutte le figure di Zinelli sono sempre quattro, multipli di quattro, quindi 4, 16 e così via. Nel primo, appunto, vediamo queste quattro silhouette nere entrare una ad una e formare lentamente una spirale. La spirale è da sempre il simbolo dell'infinito, quindi è il simbolo un po' della vita. In questo caso rappresenta la nascita, perché questa spirale via via accresce la sua velocità sino a diventare sempre più forsennata. Se vogliamo, è anche un po' un richiamo a Anna Maria Monteverdi nel catalogo della mostra di Novara, parlando di quest'opera, ha citato Quad di Beckett. La morte, che è l'ultimo quadro invece, l'ultimo che vedete in fondo a destra, non è altro che la prima scena montata al contrario. Quindi è una velocità che decresce progressivamente, il numero dei performer va a scemare, quindi da 4 diventano 3, poi 2, poi 1. Quindi questo vuol dire che stiamo parlando della morte. La morte non è altro che l'antitesi della vita, quindi una perdita progressiva di energia, una perdita progressiva di velocità. Le due scene centrali invece, la seconda scena, la prima in alto a destra, rappresenta un altro momento fondamentale della sua vita che è la guerra. Lui, come dicevamo prima, fu traumatizzato dalla guerra di Spagna. Anche durante nei brevi periodi in cui lui poteva andare a casa della famiglia, al primo suono sinistro che sentiva, lui si rifugiava immediatamente sotto il tavolo. Aveva ancora orrore dei bombardamenti. Noi abbiamo voluto raccontare questo trauma, ripetendo un gioco infantile che è quello del bim bum bam. La guerra non è altro che un gioco terribile di bambini, bambini che giocano a fare la guerra. E quindi è un bim bum bam che diventa successivamente un atto di aggressione. Vediamo queste braccia che in un secondo momento si intersecano tra di loro quasi come fossero delle spade. Quindi il bambino di ieri è diventato l'aggressore dell'oggi e del presente. Terzo, invece, il terzo video è un altro momento fondamentale della sua vita che è la scoperta dell'arte, quindi il laboratorio di Michael Nobel, questo scultore irlandese che tenne il laboratorio nell'ospedale psichiatrico di Verona a partire dal 1959. Come l'abbiamo raccontato, vediamo queste figure sempre schierate a mo' di processione, quasi come se fosse una pittura egizia. In un primo momento queste figure, o meglio, alternate, buttano fuori in modo convulso la loro energia, senza che questo venga tradotto in una forma. È un urlo liberatorio, è un modo per buttare fuori quella cacofonia, quel magma incandescente di emozioni e sentimenti che hanno dentro di sé. In un secondo momento, invece, alternate a queste prime figure, vediamo altre tracciare un segno in aria, un segno che è il primordio, che è l'origine del gesto artistico. Quindi è il momento in cui lui impara a canalizzare, a convogliare questa energia verso la forma, verso il segno, verso il tratto. Infatti lui, il momento di suo maggiore benessere psichico, coincide proprio con il periodo di massima esplosione dell'attività artistica, e questo apre anche scenari interessanti su quanto l'arte possa essere terapeutica. Come lo abbiamo realizzato con la tecnica dello stop motion? Semplicemente, trattandosi di un artista, abbiamo voluto fare dei quadri in successione e quindi lo abbiamo ripreso semplicemente con una macchina fotografica, sono delle immagini scattate una al secondo e poi montate con montate 24 al secondo per dare proprio l'idea del movimento. Secondo capitolo invece è dedicato agli scacchi. Lo abbiamo voluto collocare al centro tra l'arte e la matematica, perché gli scacchi sono un gioco di intelligenza ma anche una manifestazione di un estro artistico. È un gioco meraviglioso che ha a che fare con la creatività, con la fantasia. Tante volte noi vediamo i maestri fare delle mosse inaspettate che sorprendono i più sofisticati sistemi di computazione, ma è anche un gioco di riflessione, di strategia, quindi matematico. Il personaggio che abbiamo scelto è Paul Morphy, che è il primo campione non ufficiale, vissuto nell'Ottocento in America, in Pennsylvania, nato nel 1837, divenne giovanissimo campione degli scacchi, sacrificò la sua infanzia per diventare campione degli scacchi, è un po' come se fosse una sorta di Mozart del gioco degli scacchi. Aveva delle capacità prodigiose, era in grado ad esempio di giocare 10 partite contemporaneamente bendato, quindi questo presupponeva una fantastica capacità immaginativa in primis, perché riusciva veramente a visualizzare la disposizione dei pezzi sulla scacchiera, più scacchiere contemporaneamente. Lui compie una brevissima tournée in Europa, nel corso della quale sbaraglia tutti gli avversari. E successivamente lui era venuto fondamentalmente in Europa per sfidare quello che era il suo idolo, Howard Staunton. Successivamente lui rientra in America e misteriosamente decide di abbandonare la carriera degli scacchi. L'abbandona radicalmente, aveva quasi un rifiuto viscerale verso questo mondo che pure lo aveva reso noto, lo aveva reso celebre. Dedica la seconda metà della sua esistenza all'avvocatura. Lui cerca di diventare prima giudice come il padre era un famosissimo giudice della Louisiana, successivamente tenta di diventare avvocato, non ci riuscirà mai, e forse anche a seguito di questi fallimenti via via scivola in una psicosi sempre più grave che gli impedirà di avere dei contatti normali con il mondo, con la realtà di tutti i giorni. Quindi è una mente straordinaria collassata su se stessa, aveva mille ossessioni. C'è un libro molto interessante che ne descrive la vita, che è la psicologia del giocatore di scacchi di Fine, e era prigioniero di questo suo mondo fantastico, aveva regolamentato come molti psicotici ossessivi, come molti maniaci ossessivi, la sua vita ordinata per lasciare fuori il più possibile l'imprevisto, eliminare qualsiasi residuo di libertà, quindi la passeggiata mattutina, il pomeriggio in casa e la sera all'opera con la madre. Noi come abbiamo voluto raccontare questo? Con un normale video di impronta cinematografica, a partire da una sua opera, quale può essere l'opera di un giocatore, una partita, la sua partita più bella, che è chiamata L'Immortale, che lui giocò nel 1858 sui palchi dell'Opera di Parigi, mentre stavano allestendo il Barbiere di Siviglia. Partita giocata contro due nobili polacchi, una partita straordinaria perché lui riesce a sacrificare i pezzi più importanti, come la regina, in modo apparentemente scriteriato, ma in realtà perché dietro c'era tutta una strategia che non lascerà scampo all'avversario. Lo vediamo e poi lo commentiamo. Yeah. Dicevamo del tema, se il tema del primo lavoro su Zinelli era il tempo, il tema di questo secondo è la libertà. È nostra convinzione che uno psicotico abbia il terrore della libertà, ossia fa paura a scegliere, fa un po' paura a tutti e tante volte ci piacerebbe demandare la scelta ad altri, che altri decidessero per noi. A maggior ragione per uno psicotico. È singolare nella vita di Murphy il momento in cui, uscendo dal mondo degli scacchi, egli si trova dinanzi a sé la realtà. Se nel mondo degli scacchi lui si sentiva protetto, sapeva, conosceva, aveva una direzione, qua nel momento in cui si trova di fronte alla realtà, lui immediatamente scopre infinite possibilità esistenziali e prova l'angoscia, un po' per tornare a Kierkegaard, e cerca allora di negare la scelta rifugiandosi nel passato, quindi rifiutando il contatto col mondo. Dicevo, ora è un'impronta più cinematografica in questo video perché è semplicemente più narrativo dell'altro. Noi abbiamo voluto raccontare in termini astratti questa sua vita, prendendo la sua partita più famosa, che è appunto l'Immortale del 58, montandola, rifacendola, ma montandola al contrario. Questo perché gli scacchi, nel momento di apertura, ci sono 10 alla 64esima possibilità combinatorie. Le possibilità di gioco sono infinite. Ovviamente, come un imbuto, queste possibilità via via si restringono man mano che andiamo, che la partita si svolge fino allo scacco matto, quando non abbiamo più possibilità. Quindi montarla al contrario significa ripercorrere la sua vita, dall'assenza di scelta, quindi la sua vita protetta da campione degli scacchi, all'infinità delle possibilità combinatorie, delle possibilità di scelta, delle possibilità esistenziali che qui si trova davanti nella vita adulta. Questo impianto viene intervallato a queste immagini oniriche che raccontano il suo passato, in particolare il rapporto col padre. Questo perché il padre nella sua vita è stato fondamentale. Il padre era il grande giudice Alonzo Murphy, giudice della Pennsylvania, l'unico personaggio famoso che meritasse di essere ricordato secondo il figlio. Quando un giornalista venne da lui per chiedergli delle notizie in merito alla sua vita per compilare la biografia degli uomini illustri della Pennsylvania, lui disse: non dovete venire da me, dovete andare da mio padre, e lui la persona famosa, e lui la persona celebre. Quindi è una figura che davvero ha schiacciato il figlio. Ed è un rapporto, è sempre stato un rapporto dunque conflittuale. Noi l'abbiamo voluto richiamare questo rapporto con un transfert, rappresentando il padre, identificandolo con l'immagine del re degli scacchi. Questo perché c'è uno studio psicanalitico molto attento che identifica la figura del re nel gioco degli scacchi con quella paterna. Secondo alcuni psicologi, il gioco degli scacchi è un atto sublimale di uccisione del padre. È un gioco particolare perché non vince chi conserva più pezzi, vince chi uccide il re. Il re è un pezzo sempre, è un pezzo debole, se vogliamo, perché può fare solamente una mossa in tutte le direzioni, ma non è potente quanto la regina. Il re è debole, ha bisogno di essere protetto. Lo scopo del gioco è quello di inchiodare il re, è quello di uccidere il re per prenderne il posto. Quindi non è altro che una fase di rappresentazione della vita, dell'affermazione dell'identità, uccisione del padre come propedeutica all'affermazione della propria individualità, che è quanto Murphy non è riuscito a fare. Allora vediamo la figura del re con la corona, semplicemente con la mantella del giudice. Quindi la figura del giudice si identifica con quella del re, e questa è la sua immagine onirica. Questo re è una statua, è sepolta lì negli anni, perché non c'è modo di interferire col passato. Il passato è lì. Lui tenta questo dialogo, ma ovviamente è un dialogo impossibile, non si può dialogare con una statua. Quando lui se ne va, però, misteriosamente questa statua fa un movimento, chissà quindi che cosa questo vuol dire, forse perseverare, forse è un'insistenza, forse è un dialogo che lui non è riuscito a costruire nei termini giusti, questo non lo sappiamo. Veniamo all'ultimo lavoro, che è dedicato invece alla matematica. Anche qui di scienziati pazzi ce ne sono stati tanti. Noi abbiamo cercato un matematico, ne abbiamo scelto uno non molto famoso ma molto importante per la teoria dei numeri, che è Paul Erdős, matematico ungherese di Budapest, vissuto, nato nel 1913 e morto di recente nel 1994. Grande genio, si è dedicato, la sua più grande passione erano i numeri primi. Lui riteneva che i numeri primi fossero dei numeri mistici, dei numeri che raccontavano, pensava che ci fosse un ordine dell'universo e che questo ordine fosse il libro di Dio. Decifrare questi numeri voleva dire svelare il libro. Si è dedicato alla teoria combinatoria, alla teoria dei grafi, alla teoria degli insiemi. Ma la sua più grande passione sono stati appunto i numeri primi. Perché è un personaggio singolare? Al di là del suo estro matematico, è una persona ossessiva, compulsiva, vissuta esclusivamente per la matematica. Non ha mai avuto rapporti di qualunque genere con una donna, non ha mai avuto amicizie normali, arrivava a lavorare 18 ore al giorno, non ha mai avuto una casa, non ha mai avuto una proprietà. Lui ha passato la sua vita vagando per il mondo con queste due grandi valigie, sdrucite, mezze sfasciate, dove conteneva tutti i suoi averi. Si presentava di notte a casa dei colleghi matematici, bussava, chiedeva la tua mente aperta e li intratteneva per ore e ore e ore facendo dimostrazioni di matematica. Una persona molto singolare, non aveva alcun senso pratico, non so, c'è un libro, L'uomo che amava solo i numeri, di Paul Hoffman, che parla di tante bizzarrie. Ad esempio, lui una notte si sveglia, non era in grado di, era goloso del succo di pompelmo, non riesce a berlo, cioè non riesce ad aprire la bottiglia, allora la apre con un coltellaccio. Mancava completamente di qualunque, era goffo, era sgraziato, aveva questo cappottaccio logoro. Un personaggio per certi versi molto, molto affascinante. Che cosa ci ha colpito di questa? Un'altra particolarità di Erdos era il linguaggio. Non si sa il motivo, forse anche a causa delle sofferenze in età adolescente. Lui è vissuto, era ebreo ed ha vissuto in pieno le persecuzioni naziste. Lui era appunto ungherese, ebreo vissuto in Ungheria. E ha coniato sin da ragazzo un linguaggio per descrivere la realtà. Nel suo vocabolario personale, Dio era il sommo fascista, i bambini erano gli epsilon, ossia associava ad ogni elemento della realtà un suo sostantivo, che è un po' quello che noi facciamo, che è un po' quello che ci insegna a fare il fanciullino di Pascoli, dare un nome alle cose. Anche questo è un modo di affermazione della nostra identità. Il linguaggio infantile è molto interessante, che poi ritornerà anche nell'arte. Cosa abbiamo voluto fare? Allora, anche qui abbiamo scelto una sua opera e l'abbiamo sviluppata, poi vedremo come. La sua opera indubbiamente più affascinante è la dimostrazione che lui è riuscito a dare alla successione dei numeri primi. È una dimostrazione matematica che noi, la cui interpretazione l'abbiamo affidata, l'interpretazione è stata a cura di Lello Cassinotti, come dicevamo prima. Noi in realtà vediamo una versione molto forzata perché si tratta di un'installazione audio, quindi è un'installazione per cuffia. Poi vedremo perché. Di conseguenza non riusciremo a cogliere diciamo, il lavoro sonoro che c'è tra un canale all'altro. Lo racconteremo dopo verbalmente. Semplicemente abbiamo messo qui uno schermo bianco con questa installazione che in questo caso è in versione stereofonica. Mentre in realtà si tratta di due monodie da ascoltare in cuffia, e dopo la raccontiamo. Universalmente, unanimamente, stoicamente, matematicamente, quando gli altri erano a scuola, Hattun, Verbeutel, imparava il sommo fascista. Quanti anni? Niente. Secondi? Il prodotto di due il logaritmo di x era tedesco. Follemente. Il prodotto di x è che non era capace di frequentare le malattie. Quella donna no, è aperta. Il teorema dei numeri primi. La tua mente è il teorema del lieto fine. Tanto. per e l'Ungheria, il teorema di Hans, del quadrante la madre, c'era Pompelmi, buongiorno, Paul, il caro, mangiare, colazione, pistole gira, Auschwitz, spacciatamente, Cabbala, e chi genio, per il Loveno, Zellandia, Joseph Blank, sulla morte d'Anglia, Heinrich Klein, Schiedisch, tempo, la mia piccola, affidettamente, ma ogni volta, lui, Nick del presidente per un trans finitamente PDX maggiore unico prodotto di delta di C per X fratto la tua mente di X in giro la Brüning la tua mente sempre in giro giù alle Aix Sierra che tende a con le scarpe sporche del ma prodotto no? Di lui PDX no? Per il logaritmo poi il raffreddore e la Brüning qui niente e la Brüning siamo amici un letto una camera caro vaso con la cancia quella squadrina minore o uguale del quadrato del non esiste più sigla per piccolo ma no, lui no, non voleva, no, del logaritmo di parlare con quel botto, sempre, di nuovo io, e ogni volta io sola, mente, mamma, volle, con lui, mente, volle, mente, piccolo, volle, mente, mamma, volle, mente, mi teneva volle, la mano e io, mamma, sentro un abbraccio, una distesa dormita, campi, mamma, ser, mamma, i pani, un bel lavavo, spacciatamente, col sole, e ancora il sole gira maggiore Cabala, del prodotto di delta di C per X fratto logaritmo di X logos il teorema dei ora, numeri primi limite e ora il teorema di X che tende a infinito lui, il teorema di Hahn presente X la madre il logaritmo di X Opla, fratto X il cavaliere del tempo uguale a 1 vecchio Paul, Paul, mio unico Paul. Allora, in questo caso abbiamo scelto la forma dell'installazione sonora per un motivo. Dicevamo prima della vita bizzarra di Paul Erdős, è come se lui non avesse avuto un corpo, è come se fosse stato solo pensiero, solo mente, di conseguenza è musica, di conseguenza è matematica, di conseguenza non ha bisogno di un'immagine per essere raccontato, abbiamo bisogno solamente del suono. Il tema di questa terza opera, se nella prima era il tempo, nella seconda la libertà, di questa terza è il linguaggio. Nostra convinzione è che uno psicotico elabori un linguaggio tutto suo per raccontare la realtà. Lo stesso Zinelli aveva elaborato un suo linguaggio particolare, è come se vivessero in un mondo tutto loro di cui solo loro possiedono le chiavi. Dicevamo invece che l'opera di partenza in questo caso è la dimostrazione dei numeri primi. Noi abbiamo pensato di... L'opera è composta di due canali, due monodie che dialogano a contrappunto, per cuffia. Nella cuffia, nell'orecchio sinistro, noi sentiamo una polifonia di tre voci, che sono le tre voci della realtà. Questo perché l'orecchio sinistro è comandato dall'emisfero destro del cervello, che è la parte creativa del nostro cervello. Queste tre voci della realtà rappresentano simbolicamente il padre, la madre e il figlio. Ovviamente lui non ha mai avuto un figlio, è un figlio putativo, un matematico Goffri che lo adottò. La madre, il rapporto con la madre anche qui è fondamentale, la madre fu molto castrante nei suoi confronti e poi il padre. Questi tre rappresentano, il padre rappresenta il suo rapporto col divino, con l'assoluto, con la metafisica dei numeri. È la voce che sussurra, la sentiamo sussurrare e bisbigliare. La madre, sempre rappresentata da Lello, tutte le quattro voci sono fatte dallo stesso attore, la madre rappresenta, parla dei rapporti con le altre donne, che che furono sempre castrati, sempre impediti, proprio anche a causa di questa figura incombente. Ci sono dei ricordi personali, dei ricordi della guerra, dei ricordi di infanzia, eccetera, eccetera, raccontati intervallando qua e là qualche parola di ungherese, tipo Noch e Gigeni. La terza voce, quella del figlio, invece rappresenta, diciamo, un po', se vogliamo, la corporeità, quindi mente, rapporto con gli altri e corpo. Corpo, quindi, ad esempio, la sua goffaggine all'aeroporto quando si trattava di rincorrere, di correre per andare a prendere gli aerei, piuttosto che l'amore appunto per i pompelmi, raccontavo prima questo suo aneddoto. Quello che è significativo è che queste tre voci, come già era per Zinelli, si mescolano continuamente e seguono una versatilità estrema di tonalità. Ci sono toni alti, toni bassi, questo perché la realtà è piena di colori. La realtà, il cromatismo della realtà è un dato essenziale con cui fare i conti. Contrapposta a questo invece c'è la matematica, il linguaggio della logica, che invece è un linguaggio arido e impersonale. Noi sentiamo quest'altra voce, se qua c'è una polifonia, di qua sentiamo una monodia nell'orecchio destro, che è quello comandato dall'emisfero sinistro del cervello, quindi quello razionale, e sentiamo questa dimostrazione dei numeri primi, ma in tono asettico, in tono uniforme, in tono molto monotono. Questi due dialogano completamente e vogliono raccontare il tentativo di tradurre con la logica binaria dei numeri la straordinaria complessità che c'è nella realtà. A un certo punto queste due piste si scambiano per due brevissimi istanti e quindi lo spettatore può sentire quasi il cervello, cioè il suono attraversare il suo cervello. Noi abbiamo notato che crea anche un po' di sconcerto sentire improvvisamente le voci della realtà nell'orecchio sinistro. Questo dimostra che effettivamente il nostro cervello è predisposto e entrato in questo modo. Come abbiamo questa installazione, si ha diverse varianti. Noi a Novara abbiamo creato una black box, quindi una stanza buia, queste voci le abbiamo distribuite per la sala. La versione che utilizziamo più spesso è un'installazione per leggio e libro bianco, quindi semplicemente c'è un leggio, delle cuffie che l'ascoltatore appunto mette, e un libro bianco che ha semplicemente in copertina la scritta Erdos e poi 83 pagine, questo perché 83 sono gli anni che lui è vissuto, è un'identità neutra, ognuno, essendo lui stato solamente voce, è come se lo spettatore lo impersonasse e poi non fa altro che conferire la sua identità, quello che vuole, a questa persona, quindi è come se ognuno potesse scrivere questo suo libro bianco. Esistono altre versioni che noi chiamiamo Erdos 0, Erdos 1, Erdos 2. Questa è un po' una chicca, perché diciamo che c'è un'usanza per cui i collaboratori stretti di Erdos, quelli che collaborano con lui direttamente, vengono chiamati Erdos 0. I collaboratori che collaborarono con chi collaborò con Erdos viene chiamato Erdos 1 e così via. Così le nostre installazioni le abbiamo volute chiamare Erdos 0, 1, 2, 3 e così via. Questo è il trittico, l'abbiamo presentato un po' in tutta Italia e all'estero, e fa parte di un lavoro più ampio sul tema dell'identità. È stato prima affrontato un argomento molto interessante: la follia ci mette a contatto con la ragione, la società ci impone continuamente delle regole che vengono da noi interiorizzate, quindi è come se delle volte risultasse alienante. È per noi molto affascinante studiare la follia, perché è un modo per studiare uno spazio assoluto di libertà. Paradossale, certo, però è una libertà al di fuori di queste regole, quindi forse può essere una piccola provocazione, un modo per scoprire chi noi siamo nel fondo. Quindi la follia ci interessa per raccontare il tema dell'identità, che noi poi porteremo avanti con un dittico. Al momento è un dittico, poi non so se diventerà un trittico dedicato alla risemantizzazione degli oggetti, che avrà una chiave più pop, e poi continuerà con un altro trittico invece sulla risemantizzazione dei non luoghi, per citare appunto Augé, e niente, insomma. Saremo qua a raccontare. Tommaso parlava di questa esercitazione, un'idea che ci era venuta così parlando. Teoricamente potremmo pensare magari di aggiungere una quarta biografia, quindi magari si potrebbe fare un'esercitazione pratica studiando una biografia esemplare di un genio folle, provando a raccontarla in una forma artistica che sia antinarrativa. Questo vedremo, insomma, sì. Grazie a tutti. Benissimo. Penso che la possibilità ci sarà, perché il nostro incontro, questa si chiama prima parte, quindi nella seconda parte anche noi abbiamo l'ambizione di diventare un dittico, poi un trittico. Allora facciamo 5 minuti in cui allestiamo un attimo le nostre parti, poi ci ritroviamo qui, e così lasciamo anche sedimentare, non liberare di quello che, ma sedimentare quello che abbiamo sentito, che è stato molto molto interessante. 5 minuti soltanto, perché so che poi a tutti verrà l'oro vacui e quindi bisognerà riempirlo subito. Bye bye.